in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, il primo sabato di luglio, e ci avviamo in questa estate ormai inoltrata e devo dire cominciano a trovarsi un po' di notizie che non sono direttamente legate alla pandemia. Anche se, come sappiamo, questa è stata una settimana che il paese più importante del mondo dal punto di vista dell'economia, ma non solo, gli Stati Uniti, ha vissuto un aumento dei contagi in tantissimi stati, quindi in realtà, avendo gli Stati Uniti il ruolo che hanno nel mondo, continueremo sicuramente a parlare di Covid. E quindi, a dire il vero, iniziamo dagli Stati Uniti e in un certo senso c'è anche qui un aspetto legato alla pandemia, perché la copertina dell'Economist ha scelto di puntare sull'avviso di Joe Biden, un insolito close up, perché in generale le copertine dell'Economist non hanno dei ritratti, sembra quasi la copertina del New Yorker, anche se è una foto di Biden con la mascherina indosso. E l'interrogativo che si pone l'Economist è: retro o radical? Perché naturalmente Biden ha quasi 80 anni, è considerato da molti poco grintoso, anche a volte accusato in realtà dai suoi avversari di avere addirittura proprio di mostrare i segni dell'età anche dal punto di vista cognitivo, cosa che naturalmente è soltanto una illazione molto maliziosa e assolutamente non confermata da alcun medico. E naturalmente i medici, i candidati e in generale i politici di così alto rango negli Stati Uniti devono comunque essere trasparenti sulla loro salute. E quindi retro oppure radical, perché in realtà orfani di Bernie Sanders, che sapete era il candidato democratico che è stato l'ultimo a ritirarsi dalla corsa per la scelta dell'avversario di Donald Trump, ed era, benché anche lui ottantenne, era il favorito dei giovani elettori. E adesso Biden si sta conquistando anche la fiducia degli elettori più giovani, anche perché nel suo programma ha inserito alcuni cambiamenti importanti, per esempio sul tema della sanità, della riforma sanitaria, che è molto caro alle giovani generazioni. E quindi, insomma, questo interrogativo. Poi naturalmente, come dicevamo, siamo all'inizio di luglio, mancano ancora 4 mesi di campagna elettorale che sarà serratissima e credo anche non necessariamente all'insegna del fair play, quindi i sondaggi in questo momento, lo dice la CNN, lo dicono tantissimi altri media, danno Joe Biden in vantaggio di 10 punti, quindi più di quelli che aveva, per fare il paragone, Hillary Clinton nel 2016, e poi sappiamo che perse le elezioni, però all'epoca aveva 4 punti di vantaggio su Trump. Joe Biden oggi ne ha 10 secondo i sondaggi. Sempre però in tema Covid, anche perché sappiamo che al momento, per esempio, gli americani non possono venire in Europa, perché hanno questi criteri di chiusura dei confini, sono naturalmente dei criteri oggettivi scientifici. Quando il famoso tasso di contagi è superiore a un numero che si sceglie, nel nostro caso, nel caso dell'Europa è 1, naturalmente vengono chiusi i confini, i voli, per quanto tra l'altro per ora siano pochissimi i collegamenti che sono ripresi, non soltanto tra Europa e Stati Uniti, ma in generale. E quindi da Vox Europe vi segnalo uno studio di Newsworthy, che è un collettivo di giornalisti svedesi, che si intitola "Le regioni d'Europa che hanno pagato il prezzo più alto", perché se possiamo con tutte le cautele del caso dire che l'Europa nella maggior parte dei paesi sta uscendo dal tunnel e che si dimostra capace di individuare i focolai e agire subito con rapidità, è anche vero che nei mesi passati tutti i paesi, magari in misura leggermente diversa, ma hanno sofferto. E qui trovate tutte le statistiche, veramente molto interessante. Vi segnalo ancora una volta che il sito di Vox Europe, che è www.voxeurope.eu, è stato di recente rinnovato dal punto di vista grafico, è una fonte di informazioni e di punti di vista secondo me eccezionale. A proposito di conseguenze, effetti laterali, potremmo dire effetti collaterali, potremmo dire, della pandemia, c'è naturalmente la diffusione del telelavoro. Io sono sempre un po' restia a chiamarlo per forza di cose smart working, che letteralmente vuol dire lavoro intelligente, perché non necessariamente il telelavoro è più intelligente o è più sensato o è più razionale o è più efficiente, lo può essere, certo. E quindi Internazionale traduce una lunga inchiesta del New Yorker, dedica a questo la copertina, che si intitola "È la fine dell'ufficio? Il telelavoro promette meno costi, meno inquinamenti, una gestione migliore della vita privata, ma sostituire le esperienze e le interazioni sociali offerte dai luoghi di lavoro tradizionali è impossibile". Io sottoscrivo in pieno. Credo che ci siano poi probabilmente varia anche un po' da lavoro a lavoro, quanto sia opportuno, facile, razionale e desiderabile lavorare molto da remoto, eventualmente da casa e non fisicamente sempre nello stesso luogo. Però questa affermazione che le interazioni sociali sono insostituibili la sottoscrivo in pieno. A proposito di posti di lavoro, un po' perché si è scoperto che appunto si può razionalizzare l'organizzazione del lavoro, un po' perché la pandemia lascia dietro di sé macerie economiche, il Börsen-Zeitung, un quotidiano finanziario tedesco, questa settimana ha dato notizia che Commerzbank, che è la seconda banca tedesca dopo Deutsche Bank, prevede la soppressione di altri 7.000 posti di lavoro in aggiunta ai 4.000 che erano già stati annunciati nello scorso autunno. Il settore bancario è sicuramente, lo sappiamo benissimo anche in Italia, da molti anni ormai in una fase di ristrutturazione. Il digitale ha travolto il settore bancario come tanti altri settori, e però la pandemia, come dicevamo, ha aggravato o ha causato nuovi problemi o ha aggravato quelli che già esistevano. L'obiettivo di questi tagli è farli entro il 2023. A proposito di Germania, la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha invece naturalmente seguito, come la maggior parte dei quotidiani tedeschi, ma come per esempio anche Financial Times e Wall Street Journal, la vicenda di Wirecard, che è il colosso della fintech, che è stato veramente travolto da uno scandalo perché si è scoperto un buco di fatto, nel senso che ai valori a bilancio che le società di consulenza si sono rifiutate di certificare, e da lì è stato scoperchiato il vaso di Pandora, quindi i valori di bilancio indicavano la presenza di 2 miliardi che in realtà non ci sono. L'amministratore legato e fondatore di questa azienda è stato arrestato, poi rilasciato con una cauzione milionaria, e adesso, secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il gruppo francese Worldline sarebbe interessato a rivelare una parte degli asset di questa Wirecard. Vedremo, perché naturalmente in questo momento poi può essere visto come un momento in cui si possono fare dei grandi affari, delle acquisizioni. Sapete che l'Unione Europea si è anche allertata su questo, perché appunto quando i valori di borsa scendono o comunque le aziende sono in difficoltà possono essere più facilmente preda di magari scalate ostili o acquisizioni che non ci sarebbero state in un altro periodo. Quindi vedremo come finirà questa vicenda di Wirecard. Invece su Financial Times, a proposito di acquisizioni, è uscita l'anticipazione che Coty, che è il colosso della cosmetica, fa capo alla Jab, che è una società che a sua volta fa capo a una famiglia tedesca e che ha interessi praticamente in ogni settore, dal caffè al largo consumo, ha acquistato il 20% del marchio di make-up di Kim Kardashian, la socialite influencer, non so neanche io come chiamarla, per 200 milioni di dollari, perché tra l'altro Kim Kardashian, sottolineava Financial Times, non è la prima celebrity, forse non sarà neanche l'ultima, che lancia una sua linea di cosmetici, e anche con successo. Sono prodotti che sicuramente hanno bisogno di essere di molta qualità, perché a tutto quello che testiamo sulla nostra pelle abbiamo una reazione che non dipende dal marchio. Se è un buon prodotto lo compriamo di nuovo, quindi evidentemente il partner che Kim Kardashian ha scelto è un ottimo partner, tanto che Coty, che ha moltissimi marchi di cosmetica, ha deciso di investire questa cifra. A proposito di, vi dicevo, notizie che non riguardano direttamente la pandemia, cominciano a esserci, e sempre da Internazionale di questa settimana vi segnalo questo articolo tradotto da El País, il quotidiano spagnolo: i narcotrafficanti sfidano lo Stato messicano. C'è stato un attentato contro il capo della sicurezza di Città del Messico e, secondo l'inchiesta di El País, è un vero e proprio avvertimento al presidente López Obrador, che deve essere meno ingenuo e ascoltare gli esperti, scrive El País, perché specie, come sappiamo, e non è successo solo in Messico ma anche in altri paesi, in questi momenti di grandissima difficoltà, di emergenza economica e sociale oltre che sanitaria, la criminalità organizzata, nel caso del Messico i narcos, si può fare strada sostituendosi, come è successo tante volte anche in Italia, allo Stato. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.